Comunque noi vinciamo con il Signore anche nel momento in cui non ci facciamo prendere dalle debolezze che si affacciano nella nostra vita. Il mio essere qui è anche una dichiarazione di vittoria contro quella che è la malattia, perché la malattia non ha il meglio su di me, la meglio su di me, ma è Cristo che ha la meglio su di me. Amen. È Lui che ci guarisce. E io quindi credo nella sua guarigione e so che questa sera, nonostante io sia stato limitato nella preparazione di questo messaggio trasformerà, cambierà, equipaggerà le nostre vite. Amen? Lo crediamo? Perché la parola di Dio è efficace, la parola di Dio è potente, la parola di Dio permette alle nostre vite di passare dalla condizione in cui si trovano a una condizione elevata, superiore. E questa è la tematica che sento nel mio cuore per questo 2019. Una tematica che ha a che fare con l'incremento, con la crescita, lo sviluppo, la conquista. Dio ti chiama a conquistare, Dio ti chiama a incrementare la tua fede, Dio ti chiama a passare da una condizione di benessere a quella successiva. Dio ti chiama di gloria in meraviglioso. Lo leggiamo insieme in 2 Corinzi capitolo 3, dove c'è scritto proprio questo: ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria. Che bella successione di parole. Noi siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Dio ci dà la possibilità di vivere libertà. Cosa stanno dicendo questi versi? Stanno dicendo che lo Spirito, che Dio è lo Spirito, è lo Spirito Santo che agisce in noi, è lo Spirito Santo che agisce in mezzo a noi, e lo Spirito di Dio ci dà libertà. Questa è la prima cosa che fa lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo ti dà libertà. Tu non sei libero senza Dio. Senza Dio non hai libertà. Anche se fino ad ora nessuno te l'ha detto, senza Dio tu sei schiavo dei tuoi desideri, tu sei schiavo dei tuoi peccati, tu sei schiavo di un altro dominatore che non è Dio, perché tanto vero che esiste Dio quanto è vero che esiste Satana. È vero che esiste Satana e noi tutti possiamo avere piena percezione guardandoci attorno: questo mondo è in rovina, questo mondo è tenebroso, questo mondo non vive la bellezza e la vittoria e la luce che ci viene descritta di Dio, ma vive piuttosto il buio, le tenebre del diavolo. Tutte le cose che noi ascoltiamo nei quotidiani, nei notiziari giorno dopo giorno, hanno a che fare con un mondo che è dominato da Satana, dal diavolo. È una brutta notizia, lo so, non piace a nessuno sapere questo, ma è la verità. Ed è importante per me trasmetterti la verità così com'è, affinché alla luce della verità tu possa scegliere da che parte stare. Tu sei schiavo, senza Dio sei schiavo, con Dio hai la libertà. Hai la possibilità di essere libero dall'oppressione del maligno ed essere appartato e essere accolto e adottato da Dio. Giovanni 1 dice che a tutti coloro che hanno ricevuto Cristo Gesù nel loro cuore, nella loro vita, Lui ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Tu diventi figlio di Dio nel momento in cui accetti Cristo Gesù nella tua vita. Lo Spirito di Dio dà libertà, questo è quello che abbiamo letto. Non solo fa questo, la libertà ci dà accesso alla presenza di Dio. Abbiamo letto che noi tutti a viso scoperto, quindi non attraverso un velo, non al buio, non al segreto, non nell'angolo di una stanzetta, ma a viso scoperto, come in uno specchio, noi contempliamo la gloria di Dio. Che cosa sta dicendo questo verso? Che lo Spirito ci porta a libertà, non più dominati dal diavolo. E la libertà ci dà accesso alla presenza di Dio. E la presenza di Dio, aggiunge, ci porta trasformazione. Se tu hai libertà e hai accesso alla presenza di Dio, quello che succede è che tu vivi trasformazione. Che tipo di trasformazione? Beh, è bellissimo, perché dice di gloria in gloria. E siamo trasformati, diamo peso a queste parole, siamo trasformati nella sua stessa immagine, nell'immagine del Signore, nell'immagine di Dio. Ma tu ci credi? Cioè che il tuo destino è vivere un processo di trasformazione che ti porta a somigliare sempre di più all'unico uomo che su questa terra abbia vissuto e sia stato perfetto in ogni cosa, Cristo Gesù. Tu hai la possibilità di vivere un percorso di perfezionamento dove ti liberi di tutto ciò che è carnale, ti spogli di tutto ciò che è mondano, di tutto ciò che ha a che fare con le cose di questa terra, per assomigliare sempre di più alla bellezza di Cristo Gesù. Bellezza. Perché dico bellezza? Perché gloria significa bellezza. E quando noi leggiamo nella parola di Dio che siamo destinati a una vita che va di gloria in gloria, in altri termini, la Bibbia, Dio, ci sta dicendo che noi passiamo di bellezza in bellezza, di splendore in splendore. Sei sempre più bello con Dio. Con Dio sei sempre più bello. Puoi dirlo alla persona che ti sta a fianco e dirgli: ti vedo più bello, ti vedo più bello. Ti senti più bello? Io mi vedo con questa barba, con i capelli sempre più bianchi, qualche ruga che spunta, i miei 38 anni che fanno uscire la pancia. E questo perché ho messo lo sgabello, il vero motivo. Scherzo. Donatella, grazie. Però vedete, la bellezza reale è quella bellezza interiore, è quella bellezza alla quale Dio ci chiama. Il mondo ci propone gioia in una bellezza esteriore, che è effimera, che è passeggera e che non potrai mai continuare a rincorrere. Ma la vera bellezza sta in un cuore che è trasformato e rinnovato alla presenza di Dio. Quella è la vera bellezza. Quella è la bellezza di tua moglie. Quella è la bellezza di tuo marito. Quella è la bellezza dei tuoi figli. E loro hanno la possibilità di passare di gloria in gloria. Hanno la possibilità di vivere una trasformazione che va di vittoria in vittoria. È bellissimo, perché da tutte le parti dove leggi nella Bibbia tu ti rendi conto che i piani e i progetti che Dio ha per noi, che il destino che Lui, è la vita che pensa per noi, è meravigliosa. È sempre qualcosa che è in miglioramento, in crescita, in sviluppo. Dio vuole il meglio per le nostre vite. Lui non vuole derubarci, Lui non vuole rinchiuderci in una vita bigotta, religiosa, rinchiusa, rintanata. Lui non vuole che noi siamo mortificati da leggi e regole. Lui vuole darci la vita piena, Lui vuole il meglio per noi, e Lui lo può fare e ci può dire come, perché è Lui che ci ha creati. Dio ti ha creato ed è Lui che sa meglio di chiunque altro come la tua vita può funzionare al meglio e come la tua vita può passare di gloria in gloria, di bellezza in bellezza. Io prego che tu possa ricevere questo mandato, questo obiettivo per questo nuovo anno. anno, che il 2019 possa essere per te un anno nel quale tu prendi e abbracci completamente questa opportunità, l'opportunità di passare ad una stagione di vita migliore, perché è una tua scelta, perché se Dio promette questo, tu puoi passare di gloria in gloria, e questo a prescindere dalle circostanze che si affacciano nella tua vita. Questo è molto importante e lo capiremo ancora meglio nei prossimi versi che andremo a leggere. Anzi, proprio attraverso le circostanze che attraverserai, Dio ti permetterà di passare di gloria in gloria. Mi hanno toccato queste parole scritte dall'Apostolo Paolo ad una chiesa, alla chiesa dei Tessalonicesi. E la seconda lettera che viene indirizzata a questa chiesa che noi troviamo nella Bibbia, è proprio la lettera comincia con queste parole, le voglio leggere per voi. La lettera comincia così, con queste parole: Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Che belle parole. Poi aggiunge: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli. Com'è giusto? Perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte, ascoltate ora, in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. L'Apostolo Paolo è grato a Dio, è orgoglioso nei confronti delle altre chiese per questa chiesa che si trova a Tessalonica, perché questa chiesa è una chiesa che sta andando di gloria in gloria, sta avanzando, e sta avanzando nello specifico in due cose: nella fede. Prima di tutto nella fede, dice, la vostra fede cresce in modo eccellente. Quanto vorrei che qualcuno, osservando la mia vita, potesse dire: io vedo in te, Mirko, un uomo che cresce nella fede in modo eccellente. Non lo vorresti anche tu per la tua vita in questo nuovo anno? E poi dice, l'altro aspetto è l'amore. Dice, l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Cioè voi state crescendo nella misura del vostro amore. E tutto questo non perché una chiesa che se la cava bene, che ha una situazione di agio, non ha problemi economici, sono ben voluti da tutti, non sono oltraggiati, non sono scherniti, non sono perseguitati. Anzi, noi leggiamo, e proprio Paolo ci tiene a mettere questa precisazione proprio subito dopo averli elogiati, dicendo tutto questo proprio nel mezzo delle afflizioni e persecuzioni. E io vorrei che noi comprendessimo che le afflizioni e le persecuzioni per un cristiano non sono uno strumento che funziona nelle mani del diavolo per portarci di bene in male e di male in peggio, ma sono uno strumento che sicuramente il diavolo usa per fare questo, ma che Dio ci riscatta e ci dà la possibilità di utilizzare a nostro favore per portarci di bene in meglio e di meglio ancora meglio, di gloria in gloria, perché la Bibbia dice che tutto coopera al bene per coloro che amano Cristo. Tutto! Afflizioni, persecuzioni, cattive notizie, circostanze difficili, tutto coopera al bene per chi? Per chi ama Dio. Perché chi ama Dio ha la possibilità di vivere in una dimensione completamente diversa e arrivare addirittura a gioire delle prove che si affacciano nella propria vita. È Giacomo che dice: considerate motivo di grande gioia le prove svariate della vostra vita, perché la prova della vostra fede produce costanza. Se tu vuoi crescere e vuoi un anno di abbondanza e di gloria in gloria, non scappare via dalle circostanze difficili, non proteggerti e non entrare in difensiva, non chiuderti a riccio nei confronti delle prove, non arrabbiarti, non scalciare, ma comprendi qual è la volontà di Dio, perché la prova è il mezzo che Dio ti dà per elevarti a un livello di fede più grande. Fede e amore. L'Apostolo Paolo parla di fede e di amore. La mia preghiera è che tu possa crescere in fede e che tu possa crescere in amore. Che questo 2019 non possa essere la fotocopia del 2018, che non possa essere qualcosa che ti vede solo cambiare poche cose, ma che possa essere un anno nel quale tu passi da un livello di fede a un livello di fede maggiore, da un livello di amore a un livello di amore maggiore. Lo ricevi? Lo vuoi? Io lo voglio, io voglio maggiore fede. E la fede è la cosa più importante, fratelli e sorelle, la fede è la componente più importante della nostra vita e della vita di ogni uomo. La fede è quel pilastro che ci permette di reggere ogni colpo, ogni catastrofe, ogni circostanza difficile che si affaccia nella nostra vita, e di interpretare le cose in una maniera completamente diversa, perché la fede ti dà uno sguardo diverso, ti fa vedere le cose in una maniera diversa, ti fa credere in quello che sembra impossibile agli altri, perché tu hai questa connessione con Dio. La fede ti libera da una dimensione di solitudine. Chi manca di fede è una persona che è fondamentalmente sola. Se tu non hai fede in Dio, sei solo alle tue forze, sei solo alla tua capacità, sei solo alle tue conoscenze e alle tue possibilità. E magari sei una persona che se la cava in ogni cosa, e sei forte, sei duro, sei capace, e nella tua solitudine riesci ad andare avanti e trascini avanti la tua vita, magari lo fai pure bene, ma arriverà il giorno nel quale la tua solitudine si farà atroce nelle circostanze più difficili. Ed è lì che io spero che tu possa ricordare questo messaggio e ricordarti, se ancora non vivi con Dio, che tu hai bisogno di riporre la tua fede in Dio, altrimenti sei una persona sola, vulnerabile e senza speranza. La nostra speranza come credenti è che, avendo fede in Dio, non siamo più soli, non ci affidiamo più solo alla nostra conoscenza, non ci affidiamo più solo alle nostre capacità, non ci affidiamo più solo alla nostra forza, ma ci affidiamo ad una forza soprannaturale che è la forza stessa di Dio, ed è quindi questo che ci permette di entrare a vivere una vita miracolosa, una vita straordinaria, perché non siamo più soli, siamo connessi al Dio dell'impossibile, e la nostra fiducia in Lui ci permette di vivere delle cose straordinarie e impossibili. Ricordo Mosè, vi ricordate Mosè? Questa è un'immagine che il Signore mi dava qualche minuto fa in preghiera. Ricordo Mosè davanti al mare, vi ricordate, in quella circostanza proprio di prigionia, erano usciti dall'Egitto, lui e tutto il popolo di Israele, ma tutto ciò che sembrava essere fatto, vinto, superato, trova un impedimento impossibile da superare. Il mare davanti a loro, l'esercito dell'Egitto dietro di loro. E Dio dice a Mosè: alza il tuo bastone e lo porta a credere nell'impossibile. Mosè, che era un uomo di fede, Mosè che non era un uomo solo, anzi, Mosè è stato quello che ha dichiarato: Signore, se non sei tu a venire con noi, noi di qua non ci muoviamo. Questo è quello che Mosè ha dichiarato. Mosè era un uomo di fede, in quel momento ha alzato il suo bastone e l'acqua del mare letteralmente si è aperta davanti a lui e l'intero popolo. Questo è quello che vive un uomo che ha fede. Nelle tue circostanze, nelle tue situazioni, puoi trovare la scorciatoia, puoi trovare il percorso per uscire da quello impedimento, da quell'ostacolo, ma se c'è una strada eccellente per la tua vita, è una strada che ha una dimensione miracolosa, è la strada che solo Dio può aprire davanti a te, è la strada che si crea dove c'è il mare, è terra asciutta dove prima c'erano delle acque, e quella strada tu la puoi intraprendere se vivi la fede. E io prego, la mia preghiera è che la nostra fede possa crescere in modo eccellente, come cresceva nella chiesa dei Tessalonicesi. La tua fede è il mezzo per il cambiamento, la tua fede è il mezzo per ottenere le promesse di Dio, la tua fede è ciò che ti libera da quella che è una dimensione di vita relegata e limitata dalle tue forze. La fede è qualcosa di straordinario. E come si ottiene la fede? Per quanto può sembrare difficile ottenere fede, è molto semplice. L'abbiamo già visto la scorsa settimana. La fede è determinata da cosa osservi. Dimmi che cosa stai osservando nella tua vita e ti dirò se hai fede o meno. Cosa stai osservando? Cos'è oggetto della tua concentrazione? Cos'è oggetto della tua concentrazione, del tuo sguardo? Cosa guardi davanti a te? Dimmi che cosa guardi e io ti dirò se sei un uomo o una donna di fede. Perché in Ebrei al capitolo 12, versetto 1, dice questo: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ascoltate ora, fissando lo sguardo su Gesù. Lo rileggo, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Vuoi fede nella tua vita? E vuoi che questa fede passi da una dimensione a una dimensione più grande? Allora è indispensabile e non c'è altro mezzo se non volgere il tuo sguardo a Cristo Gesù. Guardare Gesù significa ogni giorno chiederti che cosa vuole Lui che io faccia, che cosa ha insegnato Lui. Andare e attingere dalle sue parole, dai suoi insegnamenti. Vivere Gesù non è una religione, non è una cosa che ti viene proposta e che fai venendo la domenica in chiesa. Vivere Cristo è qualcosa che avvolge la tua intera quotidianità. E ogni giorno, Cristo tu lo vivi il lunedì al lavoro, Cristo tu lo vivi il martedì quando hai difficoltà in famiglia, Cristo tu lo vivi in ogni giorno davanti ad ogni affanno, quella è la dimensione alla quale Dio ci invita. E questo è il motivo per il quale Gesù è venuto, non per darci una bella riunione da fare ogni domenica nella quale cantiamo, lodiamo, ci dimentichiamo della nostra quotidianità e poi torniamo alla routine quotidiana, nei nostri problemi, dimenticandoci che Lui c'è. La nostra vita acquisisce fede e questa fede cresce nel momento in cui il nostro sguardo è costantemente fisso su Gesù. È fisso la domenica, è fisso il lunedì, è fisso il martedì, è fisso quando le cose vanno bene, è fisso quando le cose vanno male, è fisso quando tutto sembra andare liscio e il percorso davanti a noi sembra proprio tranquillo, ed è fisso su di Lui in modo particolare quando ogni sorta di afflizione, difficoltà si affaccia nella nostra vita. Lo sguardo fisso su Gesù fa crescere la nostra fede, la fa ingrandire e ci permette di vivere una vita straordinaria. A cosa stai guardando? Io ricordo che qualche anno fa, non farò nomi stasera, li ho fatti stamattina, mettendo in imbarazzo qualcuno, c'era una sorella, una cara sorella della nostra chiesa, non farò nomi, era qui sul palco poco fa, e questa sorella, non farò nomi, che porta una maglia rossa stasera, giusto, è rossa, andò a sbattere contro un marciapiede, no? Perché questo è un errore abbastanza comune quando si prende all'inizio la patente, si guida per le prime volte, ora non so se fossero le prime volte, però andò a sbattere contro questo marciapiede forando la ruota, anche ovalizzando il cerchio, perché nelle prime volte che prendiamo la macchina succede proprio questo, no? Che piuttosto che guardare dove dovremmo andare, guardiamo ad ogni cosa che è minacciosa attorno a noi, no? Ed è l'errore più grave che tu puoi fare, perché se tu cominci a guardare il palo che vuoi evitare e lo fissi e cerchi di concentrarti e vedi sempre di più la sua minaccia, finisce che quel palo lo prendi in pieno. È vero? Ed è così anche nella nostra vita, no? Troppo spesso nel nostro concentrarci sui problemi, questi problemi al posto che risolversi si ingrandiscono. È vero? Cioè ci sono dei problemi nella nostra vita che noi istintivamente cominciamo ad osservare e poi condividiamo il problema con qualcuno e quel qualcuno ci aiuta anche a guardarlo, no? E ci giriamo attorno e da essere un problema in due dimensioni diventa tridimensionale, no? Perché cominciamo a girarci attorno, lo guardiamo dall'alto, dal basso e più parliamo del problema e più affrontiamo la situazione con altri e più questo problema al posto di diminuire si ingrandisce. Io ricordo che ero negli Stati Uniti, no? E non so se voi sapete, però negli Stati Uniti ero alla guida, guidavo una macchina. Negli Stati Uniti hai la possibilità di superare le macchine sia a sinistra che a destra, hai questa possibilità. Voglio dire, si fa anche sulla tangenziale di Bari, però in America, negli Stati Uniti, è legale questa cosa, no? E io mi ritrovai un giorno, ero su questa autostrada e c'erano questi due tir che cominciarono a superarmi, uno da sinistra e l'altro da destra. A complicare la situazione c'era il fatto che stava diluviando e quindi sapete, no, quando un tir ti supera alza un sacco di acqua e c'era questo tir che da sinistra alzava acqua e quest'altro tir che a destra alzava acqua e al mio fianco e dietro di me sentivo persone che pregavano in nuove lingue, lodavano già perché sapevano che in quel momento saremmo stati rapiti in cielo e a quel punto però qualcuno ha dato un suggerimento che è stato utilissimo per me. Anche perché ero un po' inesperto alla guida. Qualcuno mi ha detto, Mirko, continua a guardare avanti e concentrati sulle strisce della tua carreggiata. E nel momento in cui io mi sono concentrato, non sul tir che c'era a sinistra, non sul tir che c'era a destra, non sulle acque che si alzavano, sul diluvio che si stava abbattendo sulla macchina, ma sulle strisce che erano dritte davanti a me, io sono andato oltre l'impedimento e la difficoltà che c'era in quel momento. Io credo che ho reso l'idea. Volgi il tuo sguardo a Cristo. Non guardare a destra, a sinistra, al marciapiede, al tir, all'acqua. Non fare del tuo problema, della tua montagna, il tuo Dio. Fai del tuo Dio colui che muove, rimuove, caccia e allontana la montagna e l'impedimento nella tua vita. Volgi lo sguardo a Cristo Gesù, è Lui l'autore della tua fede, è colui che la perfeziona, è Lui che ti porta da un livello di fede a un livello di fede maggiore. Concentrati su di Lui. A chi stai guardando? Dimmi a chi stai guardando e ti dirò che fede hai. C'è un'altra, cioè è curioso, no? Perché non è solo qualcosa che ha a che fare con la nostra vista, no? Una vista spirituale, ma la Bibbia dice che anche il nostro udito determina la nostra fede. Ve lo voglio leggere in Romani 10, dal versetto 14 dice questo. Ora l'Apostolo Paolo scrive, dice, ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Ascoltate ora. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. L'Apostolo Paolo sta dicendo che è necessario che noi credenti parliamo dell'Evangelo di Cristo Gesù, della nostra esperienza, della nostra testimonianza di vita con Lui, che è necessario che noi parliamo a questo mondo del fatto che Gesù non è solo morto, ma è risorto, oggi è vivo e ci ascolta e agisce ed è potente da trasformare ancora vite. Perché se non sentono le persone parlare noi e annunciare noi dell'Evangelo, non potranno mai credere. Perché? Perché la fede viene dall'udire. Quello che tu ascolti determina ciò in cui tu credi. Il tuo ascoltare questa sera, queste mie parole, soprattutto la parola di Dio che stiamo insieme leggendo, sta facendo crescere in te fede. E la tua fede cresce nella dimensione di quanto ascolti la parola di Dio. La parola di Dio, l'Apostolo Paolo ci tiene a dire, la fede non è che nasce e viene da quello che può essere un bel racconto o una bella testimonianza. La fede viene e nasce nella vita delle persone, porta a conversione, porta a trasformazione e salvezza quando la parola che loro ascoltano è parola di Dio. Noi dobbiamo annunciare la parola di Dio così com'è. Quello che c'è scritto nella Bibbia, l'esistenza dell'inferno e l'esistenza del paradiso, la vita e la morte, Cristo e la sua resurrezione. Noi dobbiamo spiegare alle persone la Bibbia così com'è, la gravità del peccato, di tutti i peccati, non solo di alcuni peccati, ma la morte che c'è nel peccato della menzogna come nel peccato della fornicazione, la morte che c'è nel peccato dell'imbroglio, del furto, dell'essere ingiusti, a quello che può essere il peccato dell'omosessualità. Tutti i peccati producono morte nella vita delle persone. E noi dobbiamo chiamare le cose per quelle che sono e per come noi le leggiamo nella Bibbia, nella parola di Dio, senza vergogna. Perché nell'ascoltare le persone possono rendersi conto dov'è la radice del fallimento della loro vita. Come possono spiegarsi quel vuoto interiore che c'è dentro di loro? Quel vuoto è dovuto al peccato, quel vuoto è dovuto all'abbandono, quel vuoto è dovuto a una vita che non ha fede in Dio. La fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. E se è vero per la conversione, se è vero nell'annuncio che porta una persona dalle tenebre alla luce, è vero anche per noi credenti che già crediamo in Cristo. La tua fede cresce nella dimensione dell'ascolto della parola di Dio. Quanto più tu ascolti la parola di Dio, quanto più tu ti alimenti della parola di Dio, quanto più la parola di Dio è ciò che parla nella tua vita ogni giorno, tanto più la tua fede cresce. Vuoi una fede che cresce? Allora devi fare in modo che le tue orecchie abbiano modo di ascoltare molto più la parola di Dio che qualsiasi altra voce. E ne sentiamo di voci. Ce ne sono tante di voci ogni giorno. Ci sono voci che sono minacciose. Ci sono voci che sembrano molto gentili e allettanti, ma ci conducono comunque a morte. Ci sono voci che sembrano suggerire la cosa giusta, ma non è la cosa che Dio dice. E se non è quello che Dio dice nella sua parola, non è più giusta, per quanto possa sembrare attraente. A cosa stai ascoltando? Quale reperto medico sta determinando la tua vita? A volte i reperti medici parlano più forte di quello che la parola promette. A volte quello che può essere la voce è la ferita di una parola detta da un familiare, da una persona te cara, ha più forza e più valore di quello che la parola di Dio dice. E tu vivi una vita miserabile perché? Perché sei ferito, perché sei ferita da quella voce che ha avuto la meglio nella tua mente e nel tuo cuore. Che voce sta dominando la tua quotidianità? Io ringrazio il Signore perché sono nato e cresciuto, come ha il privilegio Lara di essere nata e ora di crescere, in una famiglia dove la parola di Dio è al centro. Io sono grato ai miei genitori perché in ogni occasione, quando ci piaceva e quando anche non ci piaceva, quando era idoneo farlo e quando non era idoneo farlo, prendevano la Bibbia, la aprivano e leggevano. E ci facevano leggere in ogni modo. Io mi ricordo che a volte entravo in bagno la mattina, nella mia stagione di ribellione, dove di Dio non volevo sapere niente, e trovavo tutti i versi della Bibbia belli appesi lì sullo specchio, che a malapena riuscivo a inquadrare la mia faccia. E guarda caso erano tutti versi che avevano a che fare con qualcosa nella mia vita. Avevo un poster nella mia stanzetta di un cantante famoso che poi si è suicidato, non un buon esempio. E mamma lo sapeva che quel cantante si era suicidato e ha coperto la sua faccia di versi biblici. E crescendo così, ho potuto in tante occasioni distinguere quando era il diavolo a parlare, quando erano le circostanze a parlare, a minacciarmi, e cosa invece Dio diceva e quali erano le sue promesse e la sua verità. Noi falliamo molto spesso perché diamo ascolto al bugiardo e diamo per vero ciò che è bugia. E Dio invece ci presenta la verità, ed è Gesù che dice che se noi perseveriamo nella sua parola saremo veramente suoi discepoli. È bello che Gesù lo dice in questa maniera, come a dire che ci sono dei discepoli che si dicono tali ma non lo sono, e poi ci sono dei discepoli che sono veramente discepoli suoi, e dice: voi sarete veramente i miei discepoli se perseverate nelle mie parole. Conoscerete la verità, dice Gesù, e la verità vi farà liberi. La parola di Dio ci libera, la parola di Dio ci dà vittoria. Io prego che questo nuovo anno tu possa crescere in fede, alimentandoti della parola di Dio, e che tu possa crescere nell'amore. Voglio concludere con questo, perché l'apostolo Paolo era orgoglioso della Chiesa perché cresceva in fede, ma perché cresceva anche nell'amore. E io prego che tu possa crescere nell'amore, perché quando sai amare, vivi bene. Quando sai amare, sei reso capace divinamente di amare, vivi bene. Non sto parlando dell'amore, quello che tutti sappiamo vivere, quello che tutti sanno vivere. L'amore che è vissuto nei confronti di chi ti ama. L'amore che tu sai vivere nel momento in cui la persona che ti sta a fianco ti offre il meglio di sé. L'amore che tu sai vivere nei confronti delle persone che ti elogiano, che ti vogliono bene, che hanno buone parole per te, quello è un amore ed è una dimensione di amore molto bassa, molto terrena. Quando l'apostolo Paolo ha scritto ai Tessalonicesi, ha detto: io devo ringraziare Dio per voi, perché l'amore di ciascuno di voi, tutti, per gli altri, abbonda sempre di più. Stava facendo riferimento all'amore che Cristo stesso ci ha insegnati, che è un amore divino, è un amore soprannaturale, è un amore illogico, è fuori dalla nostra ragione. E ve lo voglio dimostrare leggendo proprio quello che Gesù ha detto in Luca 6, versetto 27. Ma voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici. Questo è un amore ad una dimensione divina, Chi ama in questa dimensione sta amando in una maniera miracolosa, in una maniera che nessun uomo nella sua dimensione può vivere. Nessun uomo senza Dio può vivere di questo amore. Amare i propri nemici. Nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Fate del bene. Noi sappiamo fare del bene, no? Magari cucinare una buona teglia di pasta al forno. E ci fa molto piacere poterlo dare a quella persona che vogliamo già bene. Gesù sta dicendo: fai quella teglia di pasta al forno e regalala alla persona che è più una minaccia nella tua vita, che meno sopporti, che più ti ha trattato male. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono. Tutti noi siamo maledetti, nel senso che tutti noi subiamo delle maldicenze, delle persone che dicono male di noi, in fronte a noi, il più delle volte, anche per la cultura nella quale viviamo, dietro di noi, alle nostre spalle. E poi qualcuno ce lo riporta, qualcuno ce lo fa sapere, e che cosa succede in noi? Scatta il senso di vendetta, no, di giustizia, perché noi non siamo vendicativi, ma siamo giusti. Quella persona ha detto male di me, io non la saluto. Non gli dico male, ma non la saluto. Quella persona ha detto male di me, io di certo non dirò niente di bene di quella persona, anzi, alla prima occasione opportuna, quando qualcuno verrà a lamentarsi di quella persona con me, io avrò la possibilità di vomitargli addosso tutto quello che so di male, di peggio, di negativo di quella persona. E Gesù sta dicendo: in questo voi non mi state onorando, in questo voi non state vivendo l'opportunità e la gloria di essere trasformati alla mia stessa immagine. Vuoi essere alla stessa immagine di Gesù? Beh, Gesù in croce, davanti a quelle stesse persone che hanno sputato contro di lui, che lo hanno ferito, che lo hanno torturato, che lo hanno preso in giro, a quelle persone ha detto e ha pregato al Padre, li ha benedetti e ha chiesto perdono per loro. Questa è una dimensione di amore meravigliosa. Io voglio vivere un anno nel quale il mio amore abbonda, non per quelle persone che mi vogliono bene, che mi danno la pacca sulla spalla, che dicono sempre qualcosa di incoraggiante per me. Io voglio amare quelle persone che mi è difficile guardare, quelle persone che so che magari alle spalle stanno dicendo qualcosa di male nei miei confronti. Io voglio vivere nella dimensione di amore che Gesù insegna. E poi va avanti e dice: pregate per quelli che vi oltraggiano, a chi ti percuote su una guancia porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica, dà a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare, e come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Nel vivere una vita di amore si vive meglio. Forse si perde qualcosa. Quanti di noi hanno perso una tunica e poi un mantello? Quanti hanno visto la loro guancia schiaffeggiata e, come se non bastasse, anche poi l'altra? Ma nel momento in cui tu perdoni e lasci andare, vivi bene. E forse stasera non stai bene, perché hai accumulato un'amarezza, un rancore, e hai l'incapacità di perdonare. Dio vuole il meglio per te, per questo che ti invita a vivere una dimensione di amore divino, perché nella dimensione di amore divino il tuo stomaco starà meglio e avrai pace nel cuore, una pace profonda. Lascia a Dio che faccia Lui giustizia. Lui farà giustizia un giorno. Tutti noi, tutto il mondo apparirà davanti al suo trono di giustizia e sarà Lui a giudicare. Non fare tu la tua giustizia su questo mondo, lasciala nelle sue mani, anche questa è fede. E poi aggiunge, ed è qui che è la parte più importante, con questo voglio davvero concludere, perché dice: se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano, e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso, e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto, ma amate i vostri nemici, e lo ripete. Fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, poiché, e qui ci viene presentata l'immagine di Dio, ed è nella sua immagine che noi veniamo trasformati di gloria in gloria, poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Dio è buono verso di me, verso di te, che siamo malvagi e ingrati. Lui perdona me e te, che non facciamo altro che peccare nella nostra vita nei suoi confronti. Lui ci dà una nuova opportunità, costantemente, ogni nuovo giorno. Il suo amore è perfetto, lui ti ama, e il suo amore è un amore incondizionato, che non dipende da quanto tu ti comporti bene. Lui non ama come il mondo ama, lui non ama coloro che lo amano. Lui ama tutti perché lui è perfetto nell'amore, e lui ama i malvagi e gli ingrati. Se questa sera dici io non sono degno di Dio, qui trovi speranza, perché Dio ti dice: non ha importanza quello che hai fatto, non ha importanza quello che c'è nel tuo passato, non ha importanza quanti peccati tu hai commesso, quanti peccati stai commettendo, perché io ti amo e ti accolgo così come sei. E ti porto a una trasformazione in virtù della nostra relazione, di gloria in gloria. E finisce, conclude, dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Amen. Siate misericordiosi, siate pieni d'amore, vivete un anno in abbondanza di amore, concentratevi a benedire, ad amare coloro che vi è più difficile benedire e amare, e così vivrete una vita e un anno nuovo che passa di gloria in gloria. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo pregare insieme. Se questa sera tu dici sì, Pastore Mirko, io voglio una dimensione di fede maggiore, io voglio una dimensione di amore più grande, allora ti chiedo di alzare le tue mani in questo luogo, in questo momento. È un segno di arresa quello che tu fai alzando le tue mani al cielo, e voglio pregare per te e anche per me, perché nessuno di noi qui è arrivato, ma tutti possiamo passare di gloria in gloria in virtù dell'amore di Cristo Gesù. E Padre, voglio pregarti nel nome di Cristo Gesù, per mezzo del quale abbiamo perdono e abbiamo salvezza, affinché in questo nuovo anno, nella stagione che ci sta davanti, noi possiamo vivere una dimensione di fede che cresce, una dimensione di fede che aumenta e che ci permette di non essere abbattuti, scoraggiati, demoliti e minacciati dalle circostanze della nostra vita, ma piuttosto che le circostanze della nostra vita, gli oltraggi, le persecuzioni, possano far uscire il meglio di noi, la fede piena che abbiamo in un Dio che è sempre presente, quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Io prego una doppia porzione, una tripla porzione di fede nelle vite di ciascuno di noi, nel credere nel miracolo tuo, nel credere che tu puoi aprire il mare davanti a noi, che tu puoi spostare le montagne, che tu puoi creare strade dove strade non ci sono. E voglio pregare affinché ciascuno di noi possa abbondare nell'amore, quell'amore divino, quell'amore soprannaturale che non parte dal nostro cuore. Rendici capaci di afferrare e vivere l'amore pieno, l'amore divino, l'amore miracoloso che tu prometti per noi. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore. Io benedico ognuna delle persone che mi ha ascoltato questa sera, e prego che questo messaggio possa determinare una trasformazione della loro vita, di bene in meglio, di gloria in gloria, di perfezione in perfezione, di bellezza in maggiore bellezza, nel nome tuo potente Gesù. Amen. Amen. Amen. Lodiamo il Signore.